In un periodico evangelico ho letto una di quelle frasi che hanno il potere di far sussultare anche i morti, sia per la verità esaltata, sia per la più grande menzogna in essa contenuta, cioè che il Signore è LA dove C è una relazione d'amore. Questa affermazione era tesa a giustificare la benedizione di una relazione omosessuale nella misura in cui è una relazione d'amore. Al giorno d'oggi, credo che sia proprio inutile cercare nella Bibbia consensi o dissensi, perché attualmente chi ha assunto delle posizioni morali molto difficilmente non le cambia, così come trovo inutili le acrobazie bibliche per condannare una posizione o un'altra. Forse, a questo punto è meglio lasciare il codice morale dei cristiani, cioè la Bibbia per quanto riguarda l'omosessualità, e provare a fare dei ragionamenti adatti a aiutarci nel saltare fuori da questo intrigo alquanto mai aggrovigliato. Per forza di cose si prenderà in mano la Bibbia, come si detto, non per provare la liceità o meno della sessualità, ma per usare le parole in modo corretto. Se io voglio parlare di una malattia, per esempio, per forza di cose, sono costretto a usare dei termini medici già predefiniti diversamente. Non ci si potrà intendere. Così, per capire il senso della frase «il Signore è laddove ci è una relazione d'amore», dobbiamo obbligatoriamente fare un'analisi logica, cioè uno studio, che consiste nello scomporre la frase, per esaminare il contenuto di ogni parola. Il soggetto della frase è il Signore. Il termine Signore, secondo il dizionario, è polisemico, cioè ha più significati. Può essere un titolo di riverenza premesso al nome o al cognome, o al titolo di un uomo, oppure può essere attribuito a un uomo che mostra gentilezza di gesti e abitudini, come anche si può usare per definire un uomo ricco. Nel linguaggio religioso o biblico, tuttavia, non ha queste valenze, ma esso è impiegato in riferimento alla divinità, a Dio, e per questo ha il significato di colui che è possessore di un dominio. Per i cristiani, chi è il Signore se non colui che ha creato i cieli e la terra, colui al quale appartiene ogni cosa, colui che si è fatto conoscere tramite degli scritti, chiamati Bibbia, e mediante Gesù Cristo, quale suo figlio. Proprio perché Dio è il Signore di ogni cosa, ha il diritto di dettare delle leggi, di decidere Lui ciò che è bene e ciò che è male, di insegnare all'uomo come vivere. Ed è sempre Lui a avere l'autorità di stabilire il valore delle parole che usa per ordinare all'uomo come comportarsi. Se mi ordina di amare il prossimo come me stesso, non ho il diritto di interpretare la parola amore a modo mio, ma devo adeguarmi o sottomettermi a ciò che Lui, il Signore, intende per amore. Se per me amare il prossimo significa far esplodere delle bombe in luoghi pubblici, sono costretto a rivedere il mio concetto di amore, perché non è allineato con quello di Dio. Proprio perché Dio è amore, sembra che questo argomento dell'amore-amore sia una panacea, cioè un rimedio che guarisca tutti i mali, ma purtroppo non è così. Anzi, meno male. Meno male. Perché se l'amore fosse un rimedio universale, allora non avrebbe più senso essere giusti o ingiusti. Fare del bene o fare del male, oppure lavorare o non lavorare, scalare con fatica una montagna, o non fare fatica nello scendere, tanto. Cic, è l'amore, come il bacio, che si dà al bambino quando si fa del male, dicendo ecco, ora non hai più male. L'amore viene visto come una bacchetta magica, cic. È un problema? Voilà, ecco l'amore. Le cose non stanno tuttavia così, per le persone sensate. Il Signore è là e dove ci è una relazione d'amore? Anche Ponzio Pilato e Cesare avevano una relazione d'amore, nel giorno che Gesù fu condannato, perché è scritto che divennero amici mentre prima erano stati nemici, Luca 23.12. Se l'amicizia non è una relazione d'amore, cos'altro è? Si obietterà che erano amici perché erano uniti da un unico scopo non buono, quello di non salvare Gesù dalla condanna a morte. E, vero, perciò non è sufficiente fare amicizia, ma occorrono anche motivazioni giuste. Ben detto, perciò l'amore non è una virtù monolitica e per essere tale ha bisogno non solo di una virtù, ma di un insieme di virtù, quali la verità e la sincerità, unite a tante altre ancora. Non a caso, Paolo ordinò, l'amore sia senza ipocrisia, Romani 12.9, il che vuol dire che non è sufficiente amare. Giacomo scrisse, nella sua lettera dei credenti, se veramente adempite la legge, regale secondo la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene, ma se osate favoritismi personali, commettete peccato e siete condannati dalla legge come trasgressori. Non dobbiamo fare dell'amore un talismano per ogni relazione, e l'affermazione, il Signore è laddove ci, è una relazione d'amore, perciò, è molto deviante e pericolosa, anche se espressa con le sue buone intenzioni. Se pronunciata con lo scopo di volere raggiungere un certo obiettivo nel ragionamento, è comprensibile, ma perché questo obiettivo possa risultare buono, occorre allora aggiungere le altre verità. Diversamente, se affermo che Dio è amore per sostenere che alla fine di ogni cosa tutti gli uomini sono accettati in cielo, l'affermazione risulta buona, ma lo scopo per il quale la pronuncio non è conforme al volere di Dio. Quando sta scritto che la sapienza è multiforme, Giobbe 11.6, non è solo in merito al fatto che la sapienza di Dio è vasta, ma che, per essere tale, la sapienza non può riposare solo su un unico aspetto della verità. E, proprio da una sola angolazione di una verità, che nascono le eresie. Perciò, se il Signore è laddove c'en è una relazione d'amore, è necessario intendersi sul significato del termine amore. Per quanto numerosi possano essere i dubbi che sorgono nella comprensione delle parole del Dio Trino, una verità è certa. Non esiste il vero amore quando sia disgiunto dalla verità. Gesù stesso e le scritture lo ripetono spesso. GV 14:21. Chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama. GV 14:24. Chi non mi ama non osserva le mie parole. 1 Giovanni 5:3. Questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti. Ciò che Gesù ha detto, quanto è stato scritto dai profeti e dagli apostoli, in definitiva, il testo biblico, non è stato redatto per degli atei, per degli increduli, per qualsiasi persona religiosa, ma per tutti coloro. Perciò, se io dico di amare Dio, Gesù Cristo, e la verità, devo verificare la legittimità del mio amore, altrimenti sono inesorabilmente condannato da Dio come bugiardo. E proprio quello che Giovanni, l'apostolo dell'amore, ha detto ai suoi contemporanei che dichiaravano di amare Dio. Chi dice, io l'ho conosciuto, e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo, e la verità non è in lui. 1 Giovanni 2:4. Se uno dice, io amo Dio, e odia il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede? 1 Giovanni 4:20. Una cosa è dare del bugiardo a qualcuno tanto per offenderlo, altra è dirlo per fargli notare la sua incoerenza. Se io sostengo di essere musulmano ma prego Maria e i Santi, sono incoerente con la mia affermazione, perciò è lecito che altri mi diano del bugiardo. Ma qualcuno affermerà di amare Dio e anche il fratello. Cosa si può dire al riguardo? Come si può verificare se si ama veramente il fratello? Anche l'apostolo Pietro diceva di amare Gesù, il quale, alla sua dichiarazione, però rispose dicendogli che era un Satana, cioè un avversario. Si può dunque essere convinti di amare il fratello, eppure fargli del male. Si può essere profondamente convinti di avere una relazione d'amore, ma senza che in essa dimori il Signore. Era veramente una relazione d'amore. Quella tra il famosissimo ciclista Fausto Coppi e la Dama Bianca, quando per unirsi ambedue lasciarono i rispettivi coniugi e figli? Non credo. E, sempre relazione d'amore darsi agli altri? Quando Paolo disse che si può dare il proprio corpo per essere arso anche senza amore? No. Come posso allora essere sicuro di amare veramente il fratello? Lo spiega l'apostolo Giovanni. Da questo sappiamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. 1 Giovanni 5.2. Sembra che la risposta ai nostri interrogativi in merito all'amore sia sempre una. osservare i comandamenti di Dio. Punto e basta. Credere a Dio vuol dire non andare ostinatamente avanti per le nostre convinzioni, ma sottomettere le nostre certezze ai comandamenti di Dio. E se Lui dice che una cosa è sbagliata, cioè da non farsi. A questo punto non si può fare a meno di considerare ciò che dice il Signore, quel Signore che ha il diritto di dettare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Il Signore fa riferimenti all'omosessualità. Certo, essa era praticata anche migliaia di anni fa. Cosa aveva detto al riguardo? Ha detto tante cose, ma una sola è sufficiente. Per capire il suo pensiero, non avrai relazioni carnali con un uomo, come si hanno con una donna. È cosa abominevole. Levitico 18:22. E ancora, se uno ha relazioni carnali con un uomo come si hanno con una donna, ambedue hanno commesso cosa abominevole. Saranno certamente messi a morte. Il loro sangue ricadrà su di loro. Levitico 20:13. Non credo che le attuali relazioni tra omosessuali siano diverse da quelle di qualche migliaia di anni fa, e sono profondamente convinto, senza paura di essere contraddetto, che in genere, perché ci sono sempre le eccezioni, anche allora vi fosse una relazione d'amore. Eppure il Signore ha dichiarato che tale relazione è aberrante e talmente ripugnante che aveva ordinato la pena di morte. Qualcuno potrebbe anche far notare che il Signore aveva ordinato la pena di morte per cose che oggi non ci sono più, ed è vero. Ma sta di fatto che gli scrittori nel Nuovo Testamento hanno continuato a più riprese a condannare la pratica dell'omosessualità. Nella lettera ai Romani, Paolo definisce l'omosessualità una relazione contro natura proveniente da una mancanza di fede nel Dio Creatore, Romani 1:27. Nella lettera ai Corinzi poi dichiara che gli omosessuali, assieme agli adulteri, agli idolatri e ai fornicatori, non erediteranno il regno di Dio. Mentre nella sua prima lettera a Timoteo afferma ancora che la legge è stata scritta non per i giusti ma per gli empi e i ribelli, per i fornicatori, per coloro che uccidono padre e madre e, nel lungo elenco, cita anche gli omosessuali. Atteggiamenti, da lui definiti, cose contrarie alla sana dottrina. 1 Timoteo 1.8.11. Giuda poi, nella sua lettera, ricordando le città di Sodoma e Gomorra, tristemente famose per l'omosessualità praticata dai suoi abitanti in relazione alle pene eterne, dice testualmente queste parole: «Il Signore ha pure rinchiuso nelle tenebre dell'inferno con catene eterne, per il giudizio del gran giorno, gli angeli che non conservarono il loro primiero stato ma che lasciarono la loro propria dimora, proprio come Sodoma e Gomorra e le città vicine che come loro si erano abbandonate alla fornicazione e si erano date a perversioni sessuali. La distruzione mediante il fuoco delle città di Sodoma e Gomorra, nella quale trovarono la morte migliaia di persone, tra le quali vecchi e bambini, non è stato un caso ma un avvertimento di Dio, a dimostrazione di ciò che pensa dell'omosessualità. Come ho detto all'inizio, poco servono le parole, ma davanti a questo fatto storico io rifletto molto seriamente. Se poi uno vuole continuare la sua strada, libero di scegliere. Non sarà però libero di sceglierne le conseguenze. Per esse comanda proprio Dio. Marzo 2011, Ellerop.